Salve, sono Stefania, sono qui a Radio Big World con il programma Il Popolo di Barabba. Oggi mi andrebbe di parlare con voi di una cosa che ho sentito in televisione. La testimonianza di un personaggio, credo famoso, ma io non ne ho mai sentito parlare, un certo Marco Baldini, sicuramente toscano, che ha parlato della sua triste esperienza, triste e comunque anche poi a lieto fine, fortunata, perché è riuscito ad uscirne. Qualche tempo fa lui iniziò a giocare e questo gioco poi è diventato un gioco d'azzardo patologico. È iniziata la sua rovina, così almeno ha detto. Spesso voleva uscirne e a un certo punto decideva di uscire, ma poi ci ricadeva. Uscire e ricadere, uscire e ricadere. È stata praticamente la sua vita per diversi anni. Poi ha incontrato una sua vecchia amica che era diventata nel frattempo psicoterapeuta. Mentre lui giocava e perdeva gli anni migliori della sua vita, lei aveva studiato, si era laureata ed era diventata psicoterapeuta. Ha iniziato ad incontrare questa ragazza, questa signora, e ha iniziato a fare un percorso insieme a lei, una terapia. È emerso, ha detto lui, che benché avesse avuto un'infanzia, secondo quello che si ricordava, comunque un'infanzia tranquilla insieme ai suoi genitori, è emerso che lui aveva sentito quel senso di abbandono ed era questo senso di abbandono era venuto fuori da una vecchia foto. Lui per la mano al babbo e alla mamma, e il babbo guardava da una parte e la mamma guardava da quell'altra, ed è da questa foto che è venuto fuori tutto la sua tristezza e il suo senso di abbandono di questi genitori, che ovviamente non lo facevano per volerlo abbandonare. Quel comportamento gli veniva così, non sapevano neanche quello che facevano, anzi loro pensavano di dare tutto l'amore possibile a questo ragazzo, però ecco, lui ha percepito questo senso di abbandono ed è con questo senso di abbandono che poi è cresciuto e che poi è sfociato in questa terribile patologia. Ha fatto un gran bel percorso e oggi, a detta sua, insomma, lui dice che ne è uscito, ma potrebbe ricaderci in qualsiasi momento. Ma già il fatto che è consapevole di questo, io le faccio un in bocca al lupo, perché credo proprio che quel periodo se lo sia lasciato alle spalle. Perché vi racconto questo? Perché in questi giorni di festa, siamo nel periodo natalizio, nel periodo dell'ultimo dell'anno, una frenesia incredibile, ho avuto modo di andare a Firenze. Quello che ho visto davvero non mi è piaciuto, non ho visto persone passeggiare pacatamente nei caffè, a prendere un caffè con tranquillità, ho visto solo tanta frenesia, tanto correre, tanti pacchetti in mano, tanto vociare, tanta confusione, davvero mi ha disturbato. E ho fatto una riflessione, tanti bambini per mano che strillava da una parte, che strillava dall'altra, i genitori che partivano scappellotti, non ascoltavano, davvero un disagio incredibile, incredibile. E allora mi sono fatta una domanda, dico io, ma che futuro ci aspetta pensando a questi genitori che oggi sicuramente sono penalizzati per diversi motivi? Uno, perché fare il genitore, davvero lo diceva la mia mamma e prima di lei la nonna e prima ancora gli altri, il fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo, questo lo sappiamo tutti. Oggi lo è ancora di più perché i genitori sono tanto distratti da altre cose, innanzitutto il lavoro, la necessità quindi di lavorare, e quindi non sono presenti ai loro figli, e quando lo sono già molto stanchi, e la loro vita, la loro giornata inizia la mattina alle 7 e finisce la sera alla mezzanotte, quando va bene. E questo davvero li mette in una posizione di non essere attenti a quello che succede ai loro figli. Io spesso mi sono ritrovata ad accusare un po' questi genitori di superficialità, credo di averlo anche detto in qualche puntata di questa trasmissione. Però davvero mi rendo conto che sono davvero bersagliati e sono messi alla prova, a una prova durissima, quella di fare il genitore oggi, in questo caos, in questa confusione. E allora i nostri amministratori, ma che cosa aspettano a porre un occhio di riguardo a quella che è la famiglia o comunque alla coppia che ha i figli, per potergli dare sollievo, per poter essere più presenti, per far sì che non siano così tempestati e oberati di tutto quello che li circonda. Io non ho molta speranza che questo possa accadere. Purtroppo mi dispiace anche doverlo dire in una trasmissione e dover essere così pessimista. Però speranza, oggettivamente, quando vedo che tutto intorno prende un indirizzo così devastante, qual è il punto in cui uno può ricominciare se tutto intorno sta crollando? Me lo chiedo e non vedo una soluzione. Forse dovrebbe crollare tutto. Tutto quello che abbiamo costruito fino ad ora, e lo abbiamo costruito sull'arena, sulla sabbia, dovrebbe crollare per far sì che si possa ricominciare con altri valori, con un'altra testa e con l'esperienza sicuramente negativa che ci siamo lasciati alle spalle. Tanti auguri comunque di buon anno. Da Stefania, qui Radio Big World.